diretta dagli studi di Radio Centrale 97.5 a Termini Imerese, Andrea Massaro e Antonio Panzica da tre stagioni presentano L'Onda in Onda! Ragazzi, grande ingresso del Massaro. Devo dire che io non lo sapevo, quindi è ancora più dai, bello. Dai, bello, ci sta. Era il mio sogno fare questo ingresso californiano. Ehi, il mio amico californiano, lui è il cugino di Termini Imerese. È stato da dietro il vetro che mi snobba con questa parte. Salutiamo Salvatore Scaccia dietro il vetro da mille stagioni. Ciao, Totò. Ciao. Perché poi l'abbiamo parafrasato con questa cosa. Sì, anche paraculato, direi. Sì, un pochettino. Ma perché io non mi vedo in webcam? Esatto, la webcam è un po' girata, quindi o tu vieni verso di me. Va bene, adesso spostiamo la webcam. Spostiamo. Fai una cosa, tu alzati e io continuo a parlare a braccio, oppure ci ascoltiamo un attimo i Wolf Mother, sistemiamo la web. Alza il Wolf Mother. Ricordiamo a tutti quanti che possono, i nostri ascoltatori che possono ascoltarci dal sito di Radio Centrale, www.radiocentrale.it, oppure se non riuscite a ricevere lo streaming correttamente, streaming audio e video, appunto, perché ci vedete anche in webcam, su www.politeia.it e cliccate su Ascoltaci in Radio, vi servirà il player. Guarda la webcam come se ne va piano piano. Dove era prima? Ah, voglio salutare subito. Un attimo. Aspetta, saluto veloce, importante. Simona, che è diventata dottoressa in medicina e chirurgia proprio ieri. E se ci stai ascoltando, Simona, ti mandiamo un bacio immenso. Anche da parte mia, visto che ci sono stato alla laurea e anche alla cena. Quindi vabbè, possiamo. Non è Simona, quella lì, un'altra. Ah, un'altra Simona. Due Simona. Quindi due Simona. Doppio auguri, va bene, vale Simona. Per tutti. Ci sta ascoltando anche Maria Teresa e la salutiamo, che ci manda i saluti. Ricordiamo appunto che potete interagire con noi attraverso il sito e il nostro profilo Facebook www.facebook.com/ondainonda. Se non siete nostri amici, ci aggiungete, vi accettiamo immediatamente, oppure interagite con noi attraverso la chat o ci scrivete sulla bacheca tutte le porcate che volete. Ehi, allora che facciamo? Allora, Antonio, vuoi parlare di un argomento? Non so. Ma con i Wolf Mother dietro io alzerei un pochettino, ci ascoltiamo questa canzone e rientriamo subito dopo e parliamo della prima questione scottante, che è appunto la questione Libia, della Libia. La Libia. Diretta dopo l'ascolto di questo gran pezzo e questo grande inizio del nostro DJ preferito. Grazie. Ho visto che ti è piaciuto molto. Devo dire che mi sono gasato, anche perché Andrea con la coppola, anzi con la doppia coppola oserei dire oggi, è molto non l'ho capito, lo fanno a 105, non lo devo, anzi a 102.5, 102.5, ma noi siamo meglio di 102.5, non possono fare. Ce la sentiamo un po' come le babbaluci, bravissimo. Come disse il grande Bonnie per Andrea. Ma che è successo? Fai? Tutto a posto. Erano delle, secondo lui erano forse delle babbaluci roccheggianti. No, delle pernacchiole. La pernacchia erano più lunga. Ma che cioè praticamente dopo questa pernacchia, come direbbe mio padre. Totò, io ti prego, prima di fare ste cazzate, chiedi l'autorizzazione. Cioè, nel senso, cioè perché quando fai ste cose, io mi sento come direbbe mio padre, come chi lo cacciavi il tasso soro. E io ci resto un po' male, quindi capito, per favore. Ma che significa? Una ah, ci saluta ovviamente Totò Square. Totò Square, che ci, saluta anche ci te. Ascolta, saluta sì. anche te. E ci saluta anche Dasaro. E dice la gente perché, che. Cioè, bello, perché gli altri hanno un nome e cognome. Dasaro. E dice che la gente che si mette i maglioni legati sulla camicia non può mettersi la coppola. Ma perché tu usi mettere il maglione legato? No, sulla... io non sei odio, quello che critica. Io odio. No, però non parliamo. No, no, no, io odio chi mette i maglioni legati sopra la camicia. E non lui hanno senso. Ha rilevato il fatto che c'è un'associazione i cui componenti usano spesso mettere il maglioncino legato al collo, ma non andiamo oltre, altrimenti rischiamo denunce e chiusura no, della vabbè, radio. Figurati, no, magari Totò, 12 minuti alla chiusura di questa puntata. Totò, come era pubblicità. Che bello. Totò, intanto, insomma, no, vabbè, lo dico, stavamo dicendo sì, abbassa il volume Andrea perché sento la tua chat, non è il caso. Partiamo con un fatto scottante. Un fatto scottantissimo. L'emergenza Libia. Profughi. L'emergenza profughi. Emergenza Libia. Libia, che di ed conseguenza emergenza profughi. Profughi. Ma noi ne vogliamo parlare seriamente. Noi siamo una radio di sì, cazzoni, sì. Ma non è il caso di scherzare. No, tu su... sei un cazzone più che altro. Ecco, ogni tanto Totò o mette pernacchie oppure subito accolla le colpe soltanto agli altri. Certo, scusa. Ergendosi in quella torre d'avorio in cui crede di abitare. Allora, non so se hai visto che nell'elenco... Io delle... adoro quando Totò metti sottofondi. Sì, sì. È un momento di radio altissimo. Sì, sì. È triste la notizia. Attenzione. Ah, okay. Non so se hai visto che. Sì. Va bene, lasciala. Non so se hai visto che nell'elenco dei possibili campi in cui far andare le persone che giungono dalla Libia ce ne sono tanti familiari. Tipo a parte Trabia. Trabia è campo sportivo, sì. Esatto. Ecco, infatti, so che un fotografo è andato a fare delle foto. Sì, sì, qualcuno. Preliminari. Giusto? Sì, i preliminari li adoro, tra l'altro. Tra l'altro il fotografo con la coppola, esatto. Non può non fare. Va bene, continuiamo. Totò continua a fare segni strani. C'è anche Monghidoro. Ma Monghidoro... Che per molti non vuol dire niente, cioè cos'è Monghidoro? Dov'è Monghidoro? A me ricorda... Qualcosa. Ricorda... O qualcuno. Dobbiamo restare uniti. Ma dobbiamo stare così, come le mani. Cioè tu ti immagini questo gruppo di profughi con questa musica? Viene messo a Monghidoro. Io in 3 secondi di silenzio, immaginate la scena. Va bene. È Gianni Morandi che si avvicina in certo, lontananza. Sì. Che è il paese di Gianni Morandi. Certo. Ora per puoi quello. Anche togliere questo sottofondo. No, no, no, lascialo, lascialo. Allora, lascialo. Puoi continuare a lasciarlo. E tu immagina lui che inizia a dire una serie di tipo luoghi comuni che non se ne fanno niente, dei quali non si fanno niente gli immigrati. Tipo, dai che ci può dare di più. Dai che stiamo uniti. Cioè una cosa terrificante. Se a quel momento Monghidoro era famoso solo per perché, perché se gli dici di stare uniti loro sono tutti ammassati. Appunto. Non è una cosa. Minimo lo uccidono e gli dicono: guarda, vi vado a prendere il latte, ci vado io. Cioè è una cosa bellissima. Ma che co- lui intanto che niente, ha messo una rita sotto, ho cambiato un sottofondo. Sì sì, assolutamente. Allora noi c'è con la sonno, vero? Cioè dico è pronta. Ah certo, sì, no, certo, chiedevo ovviamente. Così noi vogliamo trattare l'argomento libico da un altro punto di vista. Perché da dove parte tutto, Andrea? Parte tutto da Gheddafi. Da Gheddafi, dal Muammar Gheddafi. Ebbene. Sì, l'ho capito, Andrea. Ci bisogna. Ebbene, cari, caro. Scusate, qua succede di tutto niente. No, dico. Ebbene, caro Salvatore. Noi. è contento perché sappiamo. Sa che parliamo di Gheddafi. Noi vorremmo avere un'esclusiva mondiale. Mondiale. Cioè mi stai dicendo che forse forse noi abbiamo il collegamento dal bunker? No, è qua che scalasino come non dicevo. È nel bunker che dà. No. Addirittura. Gheddafi, per potersi mescolare tra la folla, mescolare. Ha cercato mescolare. Non cioè, si dice mescolare. Sì. Un minestrone. Nascondere. Si dice mischiare, ma non vabbè. So. Vabbè, ha cercato la somiglianza, diciamo, più pronunciata con persone. Tu dici come Saddam Hussein si diceva che aveva 7 cloni. Bravo. Lui in realtà bravo. È un altro. Però è esposto. È un clone esposto. E allora si dice fuori ogni dubbio. Bravo. Allora, caro Totò, lui si trova in questo momento, udite udite, anteprima mondiale, nel backstage del concerto di un cantante, anzi un chitarrista abbastanza famoso, con il quale lui ha trovato una certa somiglianza. Noi proveremo a collegarci con lui che è nascosto dietro il palco fingendosi quel chitarrista lì. Vediamo. Ma aspetta, ma Io abbiamo stabilito un contatto attenzione, vediamo che succede. Andrea, prova a chiamarlo perché io devo regolare qui il satellite, altrimenti non arriva bene la linea. Pronto? Pronto? Ah, vai, vai. Pronto, pronto? Pronto? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, pronto! Muammar? Sì, mi sente Muammar? Io sono il traduttore di Muammar Gheddafi. Ah, ecco, sì, ci siamo. Lei può fare domande a Muammar e io risponderò. Ma il Muammar Gheddafi è al concerto di Carlo Santana? Ah, che ti apri, dice sì. Ho detto, questo era sì. Ha detto sì. Ma che ci fa collegato nel concerto del Muammar Gheddafi? No, concerto di Santana, scusa. Dice che guardandosi in specchio mattina trovata somiglianza con Santana. Beh, in effetti non sono molto diversi l'uno dall'altro. Ma infatti, Santana sa di questa somiglianza, cioè sa che il Muammar, che lei Muammar è lì. Detto che ha appena ucciso il chitarrista Santana. Come ha ucciso il chitarrista Santana? Ma questo è uno scoop eccezionale. Che sta cantando? Non poter salire sul palco. Playback. Ah, il playback. Giustamente. Che è suo collega, non conosce. Ecco, la capisce che la scaccia. Ecco, la capisce scaccia. Ecco, come scaccia. Muammar ha detto scaccia. Sì. Il Muammar ha detto scaccia. Scaccia, sì, avevo capito. Tre volte l'ha detto. In arabo va rafforzata. Ah, vuol dire andare via. Ma io non ho capito una cosa, questo concerto dov'è? Cioè, sta suonando sul palco, c'è Muammar che in realtà col microfono parla con noi e fa finta di suonare a un pubblico in delirio. Muammar sta dietro palco, pubblico in delirio perché pensa che lui sta provando in esclusiva dal gabinetto per loro. Loro sentono solo voce. Sì, ma dov'è il concerto, Muammar? Monchidoro. Montidoro, mi sembra di aver capito. No, Montidoro non esistono. Monchidoro, Monchidoro, sì, scusate. Grande duetto con Gianni Morandi. Carlo Santana alias Muammar Gheddafi con Gianni Morandi a Monchidoro. Ma esatto. Muammar, quando riceverà gli immigrati lì a Monchidoro? Muammar ha detto che comincerà ad avere pene un po' rotto di queste domande. Ah, ho capito. Vabbè, è meglio non evitare. Lui fare attentati. Muammar, io non vorrei interferire, ma non ha paura della NATO ora che ha rivelato la sua posizione? Ha detto lui andare adesso via perché tu hai fatto grande cazzata. Buona serata. Va bene, allora salutiamo il Muammar Gheddafi, il suo traduttore deficiente. E noi ci ascoltiamo il Muammar Santana con il suo cuore spinato. Eccoci, tornati qui in diretta dopo questa cagata. Questa cagata incredibile, però un collegamento interessante. Tratti una cagata, ma tratti interessante. Ci sono tra l'altro gli applausi del pubblico, sì, qui in studio. Grazie, grazie ragazzi. Hai sentito il grande applauso? Sì. Vabbè, Totò, un cretino totale. Ci dicono dalla regia che abbiamo quanti? Due minuti prima della pubblicità? Una notizia veloce. Non so, oddio, meriterebbe un po' più di attenzione, però alla fine la possiamo anche dare così, magari uno spunto. Io la darei sempre così, dico, non mi faccio problemi. La musica commenta meglio del silenzio. Comunque stavamo dicendo che non so se avete saputo che in curva in uno stadio in Colombia a un certo punto. Vabbè, posso immaginare cosa sia successo in curva in credo che tu se non lo possa. Se fosse stata dritta. No, credo che tu non lo possa davvero immaginare. Siccome un ragazzo, un tifoso di 17 anni, era stato barbaramente assassinato mentre giocava a calcetto il giorno prima di questa partita allo stadio, i suoi amici ultra hanno pensato bene di portarlo per l'ultima volta allo stadio. Ed è spuntata a un certo punto della partita la bara con dentro il cadavere del 17enne. E non sto scherzando. Non sto scherzando. Assolutamente, cioè. Vabbè, io non commento. Grazie, la notizia, grazie di questa notizia. È una cosa tristissima. No, è di una tristezza. Ma perché questa Devo notizia? Dire una notizia veloce. Non io è che non mi avete chiesto una notizia allegra. Io ho detto una notizia veloce, scusatemi. Però possiamo anche parlare velocemente di cosa, Andrea? Zucchero ha detto: Berlusconi, non vedo alternativa. Prova a levarti il Ray-Ban. Gli hanno risposto. No, vabbè, ma secondo me è molto più deficiente. Almeno la mia era una notizia vera, per quanto fosse triste. Vabbè. No, no, altra notizia: una ricerca ha dimostrato che il top della felicità si raggiunge a 85 anni. Ah. Quando ti arriva in casa la badante ucraina. Su questo io mi sento di concordare, Totò. Lo so che ha detto: Totò hai il sorriso sornione. Però ho detto, perché io potrebbe quasi, chiamare, quasi. Perché potesse chiamare a Calabrese, allora io. No, no, salutiamo la moglie di Totò. Ci sentiamo dopo la pubblicità, rimanete sintonizzati. Stay tuned con Radio Centrale. Woohoo! Eat yeah! I'm bigger than you, I'm higher in the food chain. Get in my belly! Come on! Torniamo in onda dopo l'ascolto di questo gran bel pezzo dei Propeller Heads dal titolo Crash col punto esclamativo. Intanto Andrea sta comunicando via vetrata con Totò Scaccia. Vi ricordiamo che se volete anche guardarci, perché non siete soddisfatti soltanto di sentire le nostre cagate e seghe mentali, meglio di nuovo. Vabbè, dico, se vogliono proprio farsi del male perché magari stanno facendo un fioretto, è un periodo in cui si danno da soli della bella penitenza, potete andare sul sito www.radiocentrale.it o www.politeia.it www.radiocompany.it e potrete guardare questi due bei fanciulli e l'altro fanciullone. No, dietro. A me no. Non ti fai guardare? No, no, ogni ma tanto sei talmente faccio bello. Ma perché sei se sei così bello? Ma fottitene. Ma come? Ma scusa, fottitene o fottiti? Non ho capito. Fai tu. Ah, quindi quello che ti piace fare meglio. Antonio, ma quello tu quello che ti piace bene meglio. Fare meglio. Ah, fare meglio, vai. Ma hai sentito, insomma, oggi abbiamo parlato poco. Attenzione, basta, non ne parliamo più. Abbiamo in diretta, in collegamento telefonico, il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Ozzo, ozzo. Pronto? Eccolo, pronto? Oh, pronto. Pronto, presidente. Pronto. Presidente, ormai ospite fisso in Radio Centrale. Buonasera. Buonasera. Era da tanto che non vi sentivo, e posso dirvi che non ho sentito manco po' cazzo una vangazza. Presidente! Vabbè, è un modo carino di dire che non mi siete mancati veramente da... Vabbè, perché è stato pieno di impegni, il 150esimo, insomma. Sì, sì, poi l'aumento da benzina mi costringe a fare meno pieni del solito. Vabbè, e purtroppo la signora Clio resta ogni tanto a piedi. Consuma, perché non la passa Clio, GPL? È sempre stato così cretino, ha fatto un corso. No, è naturale, è naturale. Tu stai proprio a dire. Sì, esatto. Ma se lui ride, io non riesco ad andare avanti. No, presidente, cretino, basta, non ride. No, basta, presidente, allora, ho bisogno della serietà istituzionale. Senti come la voce si fa profonda. Stavo dicendo. Come quando lei parla di Pertini, sappiamo che ci tiene molto. Sì. Ma vuoi che sanno Pertini? Tra l'altro ha aggiunto pure il nome, quindi non si capisce come lei non lo conosca. Ah, è quello che ha vinto la Coppa del Mondo nell'82. È il no, suo collega, è stato un ex presidente. Mio collega. Quello che c'ha la moglie che si chiamava Renault, gran bella donna. No, è un presidente della Repubblica Italiana, ex partigiano. Ah, lei più volte ha saltato. Oh, partigiano, sì, a bandiera rossa. Partigiano. Che tra l'altro. Scusa, ma è quello che è stato a Napoli prova pure a cantare. Non lo so. Facciamo anche cabaret, mi sembra che qua si batta la fiacca. Cantare ballate alpine, uno che è stato a Napoli militare. Vabbè, esatto, sì, come se ci fossero le Alpi, ci sta il Vesuvio. Per esempio, lei conosce una canzone sul Vesuvio, signor Scotch? Assolutamente no. Ecco. No. Mi sono svegliato e bella ciao. Vabbè, vediamo con che enfasi sì, le no, ma perché non sono molto indonato. Allora, al contrario di Scaccia che ci prova, io sto nella mia posizione. Io sono presidente della Repubblica. Presidente, ma noi vorremmo chiedere una cosa, a parte sapere perché lei ogni volta interviene in Radio Centrale, ma dovrebbe questo... chiederlo al signore dietro vetro, comunque. Vabbè, poi glielo chiederemo dopo. Andiamo. Ma insomma, questo cinquantesimo è stato abbastanza... cinquantesimo. Se questo cento... volevo dire questo centocinquantesimo è stato io abbastanza... so che in ascolto ci sta Sonia, come ascolta la cultura di Andrea mi sconfibera. Come... presidente, lei conosce una delle ascoltatrici. Si chiama Sonia, brava ragazza. Ma volevo una dire persa ieri. Questo centocinquantesimo. Ma che bunga bunga anche lei, presidente? No. Cioè, anche lei intende me o intende Sonia? No, lei. Ah, ok, perché le note lei. Sì, ho capito. Le note del voi. Già prendendo la carabina che tengo sempre nelle mutande, non si sa mai. Insieme al Kalashnikov. Vecchia battuta. Comunque diceva, prego. No, dicevo, presidente, questo 150esimo, insomma, è stato abbastanza pomposo, no? L'abbiamo vista. Ecco, io mi fermerei sulla parola pomposo. No, non è un passato remoto. Ma chi l'ha mai pensato che era un passato? Forse l'ha pensato lei. Passato, ma cosa? Lui è il presidente della Repubblica Italiana. Io padre anche della lingua italiana. Ma io vorrei capire perché pomposo. Il padre della lingua italiana. Scusate, ma io oggi non riesco, non ce la faccio. No. Oggi la vedo molto dura. Come? Molto dura. Presidente, anche lei no, dura. Vabbè, mi parla di pomposo. Lo so, ma lei dice che è dura pure. Sì, ma tu mi dici che è un passato remoto. Qua ci stiamo incartando. Vabbè, signori. No, ma come io volevo chiedere una cosa. No, mi sta chiamando mia moglie. Questa è la suoneria del telefonino. Che mi vuole chiedere? Velocemente. No, volevo sapere com'era stato. Scusa, pronto, cara. Sì, Osage. O distributore benzina, o solito, ci vediamo là, ciao. Dica. Lei si vede con sua moglie distributore di benzina. E lei come, dove si vuole vedere con una che si chiama Clio? Si vuole vedere su una terrazza sul mare? In una concessionaria. Una concessionaria. Ma quando la dovrò cambiare? L'auto rimessa. Mi parla di rimessa, di pomposa. Io non ci sto a capire. Professore, va bene. La giornata è proprio andata. Volevo sapere com'era stato stare a vedere il Nabucco. Com'era stato Va bene, grazie, no, presidente. Il Nabucco arrivederci, presidente. A chi? A Schifani. No, no, scusi, abbassi un attimo. La seconda carica dello Stato. Abbassi la musica. La seconda carica dello Stato è Schifani. Sì. Aspetti un attimo, perché chiamo mia moglie. Pronto, caro. Senti, quasi quasi mi faccio dare una messa a punto, mi faccio trasformare in pulmino Volkswagen e ce ne andiamo insieme, voglio emigrare in Russia. Ah, come, cioè, in Russia? Guarda, mi ha dato una notizia terribile, non lo dico mai più. Arrivederci a tutti quanti. Salutiamo il presidente napolitano e noi ci ascoltiamo intanto un pezzo degli Pseudo Echo che rifanno i Lips Incorporated Funky Sound. Bene, rientriamo, questi sono gli Pseudo Echo con... Sai che non la conoscevo sta versione? Funky Town, sì, è un rifacimento appunto di quella famosa dei Lips Incorporated. Yeah. Che, se sai, l'inizio molto spesso viene confuso con... Caro amico mio, colazione, spezzami. Vero. Ti ricordi? Caro amico mio, colazione, spezzami. Sì. Però viene confusa molte volte. Sì. Tanto si è occupato anche il... No, stavo dicendo il CNR, ma dovevo dire un'altra cosa. Il CNR. Perché del CNR dobbiamo parlare. Dobbiamo parlarne del CNR. Qua abbiamo, ovviamente, come sapete, oddio, forse non lo sanno gli ascoltatori, che chi vi parla, ovvero Antonio e Andrea, hanno due visioni leggermente diverse della vita, un po' della religione, no? Sì, oddio, sì, possiamo dire. Diciamo che è anche colpa mia se tu hai cambiato il tuo credo. Sì, ricordiamo che Andrea diventò ateo, più o meno agnostico, più che ateo, quando mi vide spuntare con una spilletta di San Pietro in piazza San Giovanni in Laterano. Non si sa esattamente perché c'è l'inno degli Stati Uniti d'America, ma la radio è bella per questo, perché succedono cose strane che non puoi prevedere, come direbbe Alberto D'Angelo. Allora, stavamo dicendo, a proposito del CNR, cosa c'è stata una dichiarazione del presidente del CNR, vicepresidente del Roberto CNR, De Mattei, che ha detto che lo tsunami in Giappone è stato una... Insomma, che tra l'altro CNR, vorrei fare notare che non è il Circolo Nonni Rincoglioniti, è il Centro Nazionale di Ricerca. Quindi, al di là che io credo... Aspetti un minimo di scientificità. Giusto. Se l'ho detto dopo la seconda volta. Dico, ci sono fior fior di scienziati che, o come direbbe Umberto Eco, fior fior di scienziati che ovviamente hanno anche il loro credo cattolico. Come direbbe Tremonti, fior fior di scienziati. Ah, papà, sì, parliamo del divino Giulio. Che spunta così, improvvisamente. Quindi dico, però non puoi impostare una discussione intervistato in qualità di vicepresidente del CNR dicendo che lo tsunami è semplicemente un segno. Ho avuto paura che tornasse Napolitano, no? Mi era sembrato di nuovo l'inno italiano. Ho avuto una retorica in bagno. Dico, non puoi dire che lo tsunami è sicuramente un segno di Dio che va accolto come in modo favorevole, perché comunque è un segno che lui c'è ed è normale, è nel giro delle cose, di come va il mondo, che devono esserci anche questi fenomeni. Sì, ma tra l'altro non so se hai visto quello che è stato pubblicato su Facebook da un nostro amico, che dice: cosa avremmo detto noi, che siamo, diciamo, persone che non dicono parolacce per non dire altro, sì, inseguiti dallo tsunami. Sì, quella è un'altra cosa di cui possiamo parlare in altra sede. Sì, sì. Comunque, vabbè. Staremmo morti di risate. Allora, noi facciamo i complimenti al vicepresidente del CNR. Sì, sì, un applauso. Di andare a casa, di alzarsi, come ha detto Berlusconi. Ma io ripeto, la mia visione è di un credente. Tu non lo sei, ma dico lo stesso. Io sono rimasto un po'. Più che altro per la stupito. Posizione di chi l'ha detto. Sì, non l'ho, cioè, se l'avessi detto e casa è cadere, Sirio Donini, allora magari io potevo capire, ma non me lo può dire. Se l'avessi detto, il grande supremo l'avremmo potuto capire, ma c'è da aggiornare, insomma, da parlare di una cosa che è più vicina a noi, diciamo. Io prima di arrivare alla cosa proprio vicina ci arriverei. È partita la Marsigliese allo Sanfan. Ma tu lo sai che nella prossima puntata, forse se non in questa, avremo lui. Lui? Lui, il bersaglio, diciamo, il bombardiere. Il bombardiere Sarko. L'uomo che ha, dopo la Gioconda, trafugato un altro capolavoro italiano. Diciamo che la può tenere pure, però. Sì, considerato il carattere della signora, se la può anche tenere, però comunque l'ha trafugato il signor Nicolà. È possibile Sarko. Che avremo Nicolà. Non so se oggi o la prossima puntata, quindi io l'inno lo terrei per Nicolà. Per la prossima Nicolà, puntata. Per Nicolà. No, a proposito di cose vicine a noi, io non so se tu, quando apri i giornali, lo chiedo anche a Salvatore Scaccia dietro il vetro, ti commuovi quando leggi certe notizie passate dal giornale di Sicilia come notizie fondamentali per la vita di tutti noi. Io te ne voglio leggere due. Dai, due, questo è proprio oggi. Appassionati della PlayStation al torneo PS2 di Geraci Siculo. Sti cazzi. Con tanto di articolo, cioè non c'era il titolo e un piccolo trafietto, proprio mezza pagina. Ma andiamo avanti, compare, questo è incredibile. L'amministrazione non risponde alle interrogazioni. E questa è la lamentela del consigliere Shan Appartenico, cazzo. Cioè, incredibile, cioè mettono notizie e le spacciano come importanti. Quando in realtà una, le notizie importanti, un bel curtiglio. Successo. Io qui farei parte anche il giusto sottofondo. Dove ce l'andubberà Alessio? Vabbè. Vediamo cosa mette Totò. Quindi tu sei mai i sogni sono desideri. Perché si parla di fate. Si parla di una fata. Di questo mondo. Una fata. Così incantevole, così candido, come il tuo maglioncino appena stirato dalla mano. Non è un maglioncino, ma passiamo avanti. Che cos'è, scusami, dottore amici? Un magliettino. Tu come lo chiami? La notizia, grazie. Sì. No, è che mi ero lasciato prendere dai sogni sono desideri. Vogliamo parlare di un uomo. Un piccolo uomo dal mondo dei sogni. Che però non viene dal mondo dei sogni, ma viene da qua dietro. La tua Totò. Però non possiamo parlare del mondo dei sogni. Caterrato, ci riporti tristemente alla realtà. Torniamo a noi. Che sta appunto in un paesino. Sì, qui. Il famoso Happy Field of Happy Little Field Rock. Happy Field of Little Rock, cioè Campo Felice di Roccella. Bello, anche uno se voleva lasciare il dubbio. In che, diciamo, è. Guarda Totò come si allontana dal microfono. Non sa cosa accadrà alla fine di questa il cosa. Socio. Ovviamente. Te la puoi condurre da solo la puntata la prossima volta. Ok, insomma. mi ha mischiato la tosse, è un consigliere comunale di questo comune. Senti, questo dolcissimo mondo così dolce, un consigliere che si chiama La Fata. La Fata, cosa vi aspettate che faccia? Delle cose per bambini, sarà l'assessorato alle politiche? No, tromba come un mandrillo. Ecco, questa l'ha detta Andrea, quindi posso già dissociarmi. Ecco che Totò. Ma la cosa carina è che non è che si è saputo che tromba come un mandrillo perché magari la moglie lo ha scoperto in flagrante o gli amici parlano un po' troppo, no? Perché è stato sputtanato su YouTube. Dall'amante su YouTube. Sì, è andato a finire su YouTube e tra l'altro è stato... Che io stimo tantissimo Mister La Fata. Anch'io, io stimo... Radio Centrale con Mister La Fata. Io sono con lui, anch'io. Ciao Sonia. Comunque e quindi anche con Berlusconi a sto punto, scusate. No, sono due cose diverse. No. Persone che trombano, sono... Ma ho capito, che siamo con tutti quelli che trombano. No, non siamo tutti, appunto, è più vicino a noi. Come un mandrillo. Tra l'altro, non so perché ha tolto la musica, comunque la didascalia di YouTube è meravigliosa. Perché lei non si è limitata a mettere il video e un titolone importante. La didascalia mi ha colpito. Signori di Campo Felice, eccovi servito il vostro Berlusconi. Sì, sì. C'è anche la didascalia. Perché all'interno... Ma scusa, ma invece di parlarne, perché non chiamiamo direttamente lui? Abbiamo in collegamento La Fata. Proviamo, io ho cercato il numero, ho cercato La Fata, però ho sentito sta numero, sta musica. Vediamo se risponde. Pronto? Pronto? Consigliere? Io ti amo e ti amerò per tutta la vita. No, questo, consigliere, non... Lo vuoi fare un altro ciupa ciupa? No, consigliere, io non voglio fare ciupa ciupa. Ma come no? No, consigliere, dopo 4 giorni e 4 notti, come lei insegna, basta. Mamma mia, grande ciupa ciupa. No, consigliere. Mi hai visto che ero saporito con il boxer sul letto? L'ho vista, ma purtroppo... era una cosa... No, era una cosa... Ma Totò mi ha visto, perché non lo vedo convinto. No, assolutamente. Ah, qualcosa si è perso. La donna della mia vita, che non si vede nel video, attenzione, non si vede. L'abbiamo però visto, perché si vedeva solo lei come una foca sul letto che... Ma guardi, io ero come una foca, però... No! Più di lei... No! Vabbè, no, consigliere. Basta. Non invertiamo vocali. A me piacciono queste musiche per bambini, mi riportano alla mia infanzia. Che lei è la fata. Io sono la fata. E turchina. Il problema è che ora mi caro fuori, come si suol dire. Non mi vogliono più in casa, non mi vogliono più al lavoro. Certo, lei si fa... Ma io che ho fatto di male? Ma però, perché si è fatto filmare? No, non pianga, consigliere. Non pianga, non pianga. C'è il ciupa ciupa, ora le vediamo il ciupa ciupa. Ora vediamo il ciupa ciupa e lei si... Ma ci spieghi questa cosa del ciupa ciupa? Qualche malalingua ha detto che poteva essere un messaggio subliminale, sai, sono i soliti malpensanti. Era un lecca lecca. Assolutamente sì, ero invidioso del bunga bunga. Però lei perché faceva il gesto con la mano? No, facevo capire che c'era pronto il panino di là. Ah, dice, io no, perché fame. Io dal video vedo che lei dice caccia un altro ciupa ciupa. Ma lei mi sta imitando, sì. Ma come si permette? Scusa, sono la fata. Scusi. Va bene, io torno nel mio mondo dei sogni e ricordatevi che la fata uno ce n'è. Non me lo dimenticate mai. E noi salutiamo la fata. Siamo tutti con la fata. Radio Centrale. Radio Centrale lascia la pelle. No, Radio Centrale. Voi due. Onda in onda. Okay. E con il consigliere La Io Fata. Io sono con la fata. Speriamo che non ci quereli dopo. Ci ascoltiamo. C'è posta per questa te. Intervista. Vabbè, sì, lasciamo un po'. Ma perché? Perché è bella. Ciacca. Perché fa ciaccata. Ciaccata. Ciaccata. Ciaccata. Siete Chakata. Due rincoglioni, posso dirtelo. Oh, mi ha preso il ciacata. Ciacata. Ma perché c'entra con ma il... perché è bello? Con la fata c'entra la ciacata. La patata. Ciacata. La patata. Lo sapete che... La patata. La patata. No. Hey. Scusate. Sì. Io vorrei fare un appello, consigliere, non ci guereri, alla fine noi siamo con lei. Sì, venga qui. Io mi schiero. Venga con la qui fata. Che è pieno di ciupa ciupa. Domani ci vestiamo tutti da personaggi Disney e andiamo sotto casa di La Fata a fare il tifo per lui. Con i ciupa ciupa in mano. Tanto secondo me alla fine c'è La Fata. Oddio santo. Va bene. Senti, e intanto ci ascoltiamo un altro pezzo, ci ascoltiamo The Darkness con... No, bellissimo. No, non ci ascoltiamo The Darkness. No, ci ascoltiamo... No, ci ascoltiamo Fabri Fibra. Fabri Fibra con Tranne Te. Hey. Anche se qua è rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Ma cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare. Dai, facci ballare. Tutto c'è, tu vuoi lei, tu vuoi lei. Sì, ma lei ha già un marito che ti cerca, immagina il perché. c'è una festa, siamo in 103. 3000 da tre, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap turupistico, specpeteristico, stepperepistico, rap futuristico. D'estate lavorano tutti perché tutti lavorano, tranne te. Questo pezzo piace a tutti com'è, che tutti lo cantano, tranne te. La vita che sogni è tutta un pacco, come in TV, affari tuoi. È come la verginità, ad un tratto prima la perdi e poi la rivuoi. Qui c'è la musica e tu non balli, tu parli, parli, parli. Easy Rider sopra un Harley, con la maglia di Bob Marley. Le mie rime, la gente le mima, dopo tutto sono meglio di prima. Lo spettacolo è finto di brutto, hanno tutti capito il trucco, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Se tu sei bella bionda grida, oh, se tu sei bella buona grida, oh, se tu sei fidanzata grida, oh, se non sei fidanzata grida, oh. Futuristico, hey, ui ui, se le Medellin. Quasi quasi faccio il rap in francese. Mi fa più elegante cantante. Tira sulle mani se anche tu c'hai l'amante. Nella pista c'è fibra a palla. E il mio ragazzo guarda come balla. A 12 anni a contare le stelle, a 30 anni a contare le parcelle. Nella testa ho 1000 particelle. Di notte sogno 1000 porcelle. Mi regalano le tagliatelle quando mi vedono a TRL. Di politica non sono l'esperto, ma dicono l'Italia sarà presto un deserto. Tra 20 anni saremo tutti quanti emigrati a Saint-Tropez. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Se tu sei bella bionda grida, oh, se tu sei bella buona grida, oh, se tu sei fidanzata grida, oh, se non sei fidanzata grida, oh. Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap turupistico, specpeteristico, stepperepistico, rap futuristico. Ah, non sente niente. Vai Andrea. Ciao, vai. Siamo tornati in diretta e sì. Siamo appunto in regia perché ci ha salutato siamo... Totò che va a vedere il consiglio comunale, quindi noi Ma che cosa? Ma mi senti? Ma tu sì, mi senti? Sì, certo che ti senti. Io perché non mi sento bene? Questo non lo so anche. Aspetta, devo vedere dov'è la regolazione del volume. Ma tu non ti preoccupare, ti sentiamo tutti. Sì. Antonio parla tranquillo, tanto va bene, ok. Va bene, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che ci hanno detto che il player per lo streaming online ogni tanto salta, che dovete collegarvi sul sito www.radiocentrale.it o www.politeia.it per avviare lo streaming. Cliccate su ascoltaci in radio se su politeia.it e qualora il player dovesse bloccarsi vi basterà chiuderlo e riaprirlo. Oh, passo io da casa vostra e ve lo aggiusto. Va bene Antonio. Comunque, prossima notizia. Io so che insomma ci sarà un ospite importante che è arrivato oggi perché qui in Sicilia è venuto a Lampedusa. Sì, tu già stai bruciando un po' la notizia, però devo dire la verità. Lui è... Ma tu mi senti bene? Sì, sì, benissimo. Io non sento nulla. Non ti preoccupare. Se trovi qual è la mia cuffia e mi alzi il volume, ti voglio bene. Non mi toccare però le parti intime. Allora, dicevamo che c'è un ospite importante. Penso che molti di voi avranno capito di chi stiamo parlando, ma credo che si regoli da lì il volume della cuffia, forse. Stavo dicendo, molti di voi avranno capito di chi stiamo parlando. Speriamo che siate ancora collegati e non vi siete scocciati di questa attesa. Ebbene sì, quando Andrea troverà non ti preoccupare, vabbè, tanto del volume, l'importante è che mi sentite voi. Noi ci collegheremo con il presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, da Lampedusa. Beh, vediamo se insomma si può avviare questo collegamento col presidente. Io non lo so, prova tu Andrea, perché io non sono pratico di queste cose coi numeri. E lo sai che poi ogni volta non c'è i collegamenti, mi emoziono, preferisco lasciare fare a voi. Vediamo un po'. Pronto? Potentissimi mezzi. Gesù. Oh, presidente. Scusate, sono qua a quest'ora tarda, ma ho finito adesso di mangiare un po' di calamaletti al brodo, Crivio. Presidente, ma insomma, benvenuto a Radio Centrale. Intanto bentornato a Radio Centrale, per la prima volta non urla dopo che ci insulta sempre. Devo dire che mi siete mancati. Insomma, questo postribolo le fa piacere alla fine. Sì, adesso infatti voglio farvi uscire tutti dalla radio e creare un casino lì a Termini Imerese. Ma come un casino? No, per favore, ci manca solo quello. E adesso c'ho anche le navi pronte e arriveranno al porto e manderanno via tutti i termitani. Cribio, ballate con me, tranne te. No, presidente, Cribiaccio, si dica. Si calmi. No. Si calmi. No. Lei non è compo sui. Guardi, le passo Giulio. Ma come Giulio? Presidente, non si sente molto bene. Credo che stia deirando più del solito. Però, se vuoi, io ripasso. Ma lei è il ministro Giulio Tremonti? Sì, sono il ministro Giulio Tremonti. No, perché mi sembra che lei sia un po' De Gregori. De Gregori? Sì. Ma cioè, guardi, è lì sul De Gregoriano. Non c'entro proprio, no. De Gregori sarà sua madre che guarda le alici. Io non c'entro nulla. Vabbè, le riposto il presidente. Grazie. Presidente, lei è stato a Lampedusa. Certo. A vedere la situazione. Ecco. Anche una casa. Guarda, mi si allarga di più la bocca. Posso chiederle una cosa? Ma anche una casa, Cribio, no. Ho fatto la battuta, oh, la sanno Dio. Fare tutti, sai tranne chi? Tranne te, va bene. Presidente. Sai che ho anche ascoltato Panic and Meus. Sì, interessante. No, io vorrei capire, perché cazzo ha comprato una casa a Lampedusa? Intanto puniamo questo linguaggio dei comunisti! Ha ragione, mi è scappato. Ma sa, quando lei fa questa cosa mi è così... Mi rifaccia la domanda. Perché ha comprato una casa a Lampedusa quando c'è l'emergenza immigrati e va lì a spendere un milione di euro... Perché ci sono le mie stanze ad Arcole, tutte riempite da ragazze di poca, di dubbia provenienza. Ma lo dice da solo? No, sì, presidente, si aprile, c'è il processo, lei non può sputtanarsi. Scusi, così. Qual è il processo? Processo Ruby. No, quando è, lo so qual il è. Il 6 aprile, ho già organizzato una festa a casa mia a Lampedusa. Ma non è possibile. Quindi non ci sono. E quindi è un legittimo impedimento. E neanche lei potrà venire. Anzi, sarà l'unico. E quindi ci saranno tutti. Tranne te. Presidente, lei è completamente impazzito. Insomma, questa questione dei migranti la risolviamo? Non la risolviamo? Le navi partiranno? O li porta tutti a casa sua? Guardi. Sì. Io non so. Questa domanda è difficile. Perché è seria. Sì, esatto. Pusani. Quasi come è? No, presidente, non pianga. Sto pensando anche al mio amico. Guardi, ho pensato una cosa. Ma ci sono circa 8.832 immigrati. Ma che non è vero? A Lampedusa? Sì. No, sono 6.000. Ma guardi, ma non ho capito perché lei. E ne sono sbarcati 2.832. Ma che numero? Ma allora, dai, se numeri? Mi ascolta, se mi fa parlare, le dico una cosa. Ho pensato di dividerli tra la mia casa di Arcone, lì, la Dependance. Ma no, non può, boh, si è detto fuori riball. Fuori di ball? Sì. E io ci dico scuola di ball, tranne te. Va bene. Salutiamo il presidente. No, l'altra metà. Resta le con do noi. Uno scoop. No, le do uno scoop e poi vado che mi attendono per la prima festa nella mia villa. Quella nuova? Esatto. Li mando tutti a casa del mio carissimo amico, il consigliere La Fata, tranne te. Presidente, quindi anche lei ha sentito poco fa il consigliere La Fata è intervenuto in Io lo sento tutti i giorni e non pensi male, malandrino di un comunista. Ma lei che compra tutto, perché non compra anche alla Chupa Chup, così, insomma, può dare da mangiare alla lei Fata. Lei parla in modo strano, cos'è la Chupa Chup? La Chupa Chup, che di cui La Fata, insomma, era bramante. Guardi, questi bramante. Termini io non li conosco e li abborro. Arrivederci e ci vediamo tutti a Lampedusa, ovviamente. Tutti tranne? Tranne te. Lo sappiamo. Presidente, noi la salutiamo, ci ascoltiamo in The Darkness, bruciamolo dal microfono e vi lasciamo con One Way Ticket. Eccoci, tornati in diretta. Stavolta io sento la mia voce, perché qui il tecnico Andrea è riuscito a sistemare tutto. Sappiamo che insomma ci state seguendo in tanti, vi state divertendo. Io saluto ancora la buona cara Sonia, che è anche la mia ragazza. Ecco che Andrea mette sottofondi, però a volumi improponibili. Si chiamano soprafondi. Soprafondi, i soprafondi, i soprafondi. Senti Andrea, noi abbiamo ancora alcuni argomenti di cui parlare. Sì, sì, abbiamo ancora una ventina di minuti di trasmissione. Almeno due interviste. E poi ricordiamo che ci sarà la trasmissione di Positive Vibration, trasmissione reggae di Positive Vibration dalle 9 alle 10 e mezza. E a seguire feedback con dalle... il grande Pegiziano, esatto, dalle 22. No, dalle 11, vabbè sì, dalle 10 e mezza alla mezzanotte. Bravissimo, vedo che ci sei. Insomma, la serata è popolata da giovani che mettono musica giovane e sono per i giovani. Esatto, e fanno divertire. Intanto fa un po' impressione vedere su Rai 2 Cicchitto, se vi potete insomma mettere... Fa sempre impressione, diciamo, vedere Cicchitto. Chi è a casa e può mettere il tre... solo che arriva un po' in ritardo con lo streaming. No, no, no, siamo perfettamente in diretta. Dici? Sì, sì, sì, no, ah, beh, sarebbe carina questa cosa. Quindi se accendete il televisore magari possiamo anche commentare. No, ma non accendete il televisore perché dovete sentire noi. Vabbè, quindi questo è pure vero, però mettendo il muto magari commentiamo insieme le immagini. Allora, senti Andrea, sai, cioè, ho letto una dichiarazione oggi, così la volevo condividere, no, con te. Condividi, ma condividi. Se ti va. No, certo che mi va. Mi va piace sempre dire condividere. Mi sa del film. No, di no, vabbè, lascia stare. No, no, no, volevo parlare di Facebook. Allora, è bello sapere di poter contare su una TV fresca, pulita, reale, in cui si possa anche capire un po' meglio come vanno le cose nel mondo. Anche quando ci si litiga magari per un balcone infiltrato di umidità che disturba il vicino del piano di sotto, o se un figlio pretende l'eredità dallo zio per un'antica promessa fatta dal padre, o se ancora vogliamo saperne di più sull'Aquila. Ecco, per tutto questo è bello sapere che possiamo spegnere il TG1. Firmato la redazione di Forum. Come la redazione di Forum? Sì, la redazione di Forum. Loro, ovviamente non è vero, volevo soltanto, certo, togliere perché questa citazione, questa invenzione, solo per sottolineare quello che è accaduto a Forum. A Forum, per chi non l'avesse visto l'altra volta a Forum. Ti sento molto meglio, sento la tua voce molto precisa. Squillante, vero? Sì, è bella, molto bella, molto bella. Grazie, vai. Grazie. No, perché l'altra volta, appunto nella puntata di Forum, è intervenuta una... figurante, possiamo chiamarla così, due figuranti perché non erano reali contendenti di un arbitrato. Attenzione ragazzi, l'arbitrato Andrea ha appena detto i reali contendenti di un arbitrato, esce il suo essere giurisprudente. Però scusate, sii più principe del foro, vorrei dire. Poi ti dico quale foro, però dico sii più prudente che giuris. Io ti dico di essere prudente, vai. Ok, sono più prudente perché questi appunto finti attori, contendenti, quindi figuranti, erano lì per propagandare qualcosa che qualcosa, inesistente, esatto, inesistente, ovvero che la ricostruzione all'Aquila, sì, era perfettamente riuscita appunto, e tutto andava bene eccetera, quando appunto si sa, cioè si vede benissimo dalle immagini, dalle foto, dalle testimonianze vere, testimonianze non da TG1, sì, diciamolo, perché insomma Minzolini governa questo TG1. Augusto Minchiolini, sì, salutiamo. No! Salutiamo. E vai, sono due querele oggi. Vai, oggi abbiamo Augusto e Tindondan, la fata. Ricordiamo che per chi volesse querelare ci può ascoltare la nostra puntata, no, all'indirizzo, non puoi dire per chi volesse, sì, querelarci, è meglio ondainonda.blogspot.com. Posso farti l'applauso, perché per chi volesse querelarci neanche lo zoo di 105 credo l'abbiamo detto, sì, infatti noi siamo meglio, più avanti, siamo meglio dello zoo. Può ascoltare la nostra puntata in podcast su www.ondainonda.blogspot.com. tranne te presidente, intanto ripassa Berlusconi, sì, ogni tanto e insomma, per chi volesse querelarci può risentire la puntata. Sì, perché magari giustamente noi accogliamo la querela e lo ospitiamo anche in radio. Sì, sì, sì, è bello. Possiamo fare una puntata la querela in onda con tutti quelli che ci hanno querelato, li mettiamo e qui. Invitiamo Rita dalla chiesa a fare, tra l'altro, da suora dalla chiesa. Certo, vabbè. Vabbè, lasciamo stare. Sì, praticamente la signora cosa ha detto? Io sono stato una delle due dei due figuranti di questa puntata di Forum al centro di uno scandalo, secondo me. La parola scandalo è anche, come dire, vergognoso, minima, sì, perché comunque è anche peggio di uno scandalo mandare, d'accordo che si fanno lì sempre delle storie, si mimano con due attori, ma storie appunto del condominio, il figlio che se ne vuole andare a vivere all'estero, il padre non vuole, ma non puoi chiamare due abruzzesi, perché ovviamente serviva avere l'accento del posto, proprio con dei suggeritori alle spalle, un po' come a teatro, no? E ti dicono, dice, no, tu devi dire che le strade sono a posto, che le case sono belle. Quelli hanno detto, noi siamo stati pagati, cioè cosa abbiamo fatto noi di male? Beh, infatti ci sarebbe da parlare con la signora Rita della Chiesa, che peraltro io ho sempre stimato molto, mi ha deluso stavolta. Beh, guarda, ne ha combinate, cioè a Forum ne fanno di peggio, voglio dire, comunque... Tu sei un fan di Forum? No, non sono un fan di Forum, io l'abolirei completamente, anche perché Rete 4 secondo me deve andare sul satellite da molto tempo. La vecchia polemica con Europa 7. Sì, con Europa 7. Ma lasciando stare questa cosa qui. Ci stiamo aggravando, Andrea, facciamoci una risata! No, io volevo parlarne finalmente. Ho voglia di sfogarmi, ma vabbè. Facciamo una cosa, dato che abbiamo parlato di questo argomento, ci ascoltiamo una canzone abruzzese. No, ci ascoltiamo ci ascoltiamo le Braghe Corte, che hanno fatto tra l'altro questo video di questo rifacimento di una canzone di Nancy Brilli. Pelosi. Cazzo, non mi viene. Vabbè, Nancy comunque. Cazzo non mi viene. Bel cognome. Nancy Sinatra. Vabbè, ma Frank Sinutre. Va bene, ok. Che hanno fatto il video con Rocco Siffredi, tra l'altro. Ah, loro si chiamano centimetri. Loro si chiamano Le Braghe Corte, e questa è These Boots Are Made for Walking. Woohoo! All over you. All over you. Keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you never get burned. Well, I just found me a brand new box of matches, and what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk out over you. Eccoci qua, tornati in diretta su Radio Centrale FM Italia dagli studi di Termini Imerese. E questa era These Boots Are Made for Walking nella versione delle Braghe Corte. Ma di dove sono ste Braghe Corte? Non lo so, devo dirti la verità. Non ti sento. No, diciamo che... Non ti sento. Scusate, non mi era aperto il microfono. Adesso ti sento. Volevo dire che non lo so dove sono le Braghe Corte, a dire la verità. Possiamo informarci immediatamente grazie ai nostri potenti mezzi cerchiamo. Ma Antonio, tu so che hai... Non mi possono scrivere amore, non ti palpare. Vabbè, perché ci vedono in video, ricordiamo sempre. Non mi sono palpare. E rifacciamo la nostra marchettina, ricordando appunto che potete ascoltarci e vederci in streaming audio e video. Sì, ma io non mi sto palpando, magari la gente si vuole collegare per vedermi palpare. No, no, non si sta palpando, ma se vorreste, se voleste Sonia, vederlo, si vede che stai ascoltandoci perché Andrea ha problemi. Se voleste vederlo palpare, anche se non lo fa, collegatevi su www.radiocentrale.it o su politeia.it. Quella più bella è, per chi volesse querelarci, io me la scrivo in camera, ti giuro, ti ho amato oggi per l'ingresso e per questa cosa. Grazie, grazie, grazie. E senti un po', Andrea, quanti minuti mancano a fine programma? 10 minuti più o meno? Sì, più o meno, e poi appunto ci saranno quei simpaticoni di Claudio e di Riccardo. Di Claudio e Riccardo con... Mi piace completare le frasi. Con Positive Vibration, la trasmissione del reggae. Sì, con Claudio che più o meno parla così e dice oggi parleremo di Bob Marley, uno sconosciuto del reggae, e vediamo di ascoltare un grande pezzo di Bob Marley. Comunque sono bolognesi le breghe corte, sai? Ah, sono bolognesi. Sono bolognesi. Allora mangio le lasagne, guarda lì come stanno bene, Sassuolo. Senti, ma invece restiamo in Emilia. Mi piace che siamo arrivati improvvisamente in Emilia. Io adoro vederti perché chi si collega vede te con la mano sull'orecchio. Sembra che sto parlando con il telefono, sai, vecchia cornetta. Guardate, si è staccato un pezzo di auricolare, come lo chiamiamo, di cuffia. Tra l'altro è abbastanza sporco. Ah, si monta semplicemente. Ma sì, sai cos'è? Io sporco. Ogni volta vedo quei VJ radiofonici che si tengono la mano sulla cuffia come per sentire meglio. In realtà non serve a niente. No, ma in realtà questa è penzolante. Quindi è penzolante. Come vedete, Augusto Penzulino. Sei mono in questo. Sì, perché sì, ti entra da un lato solo. Vabbè, lasciamo stare. È la tua madre stereo questa... perché gli entra più là. Esatto. Comunque, non mi fare essere scurrile, Andrea. Mamma, se vuoi querelarlo, sempre www.blogspot.com/ondainon. Signora. Restando in Emilia Romagna, io vorrei spostarmi verso Maranello. A te Maranello. Cosa dice Maranello? Maranello mi sa di corse di ferro. Quella Andrea ha una cultura. Ragazzi, guardate, io ho scelto questo co-DJ soltanto per la sua cultura. Veramente, vabbè, diciamo che t'ho scelto io. Poi vabbè, una volta lui mi ha invitato, mi ha detto vieni a dire porcata in radio. Però dai, diciamola così. Io anche nell'introduzione ho fatto da tre stagioni. E abbiamo anche DJ californiano per le feste. Va bene, sì, Maranello. E c'è stata la prima gara del mondiale di Formula 1 che doveva svolgersi in Bahrain. Ma se ricordi, per tutti quei disagi, insomma, per le violenze che sono registrate anche in Bahrain, per la rivolta della popolazione, non si è potuto tenere il Gran Premio, perché ovviamente non è una bella cornice vedere gente, giustamente, che si uccide per un pezzo di pane, mentre lì 200 miliardi di dollari se ne vanno in un solo giorno per una gara di Formula 1. Sì, la stessa cosa è successa a Lampedusa giù a meriggio. Sì, diciamo. Praticamente sì. Praticamente vabbè. Se ogni tanto torna. Allora, diciamo che la Ferrari con Alonso è arrivata quarta. Qualcuno penso lo voglia sopravvivere, però Fernando Azzonso, soprattutto per quello che ha fatto alla partenza, dove sì, ha perso almeno 5-6 posizioni. Noi vorremmo collegarci, sai, una cosa diversa, non l'abbiamo mai sentito uno sportivo in questo programma, credo non sia stato mai intervistato, con Fernando Alonso, scusate, e vediamo un po' se riusciamo a collegarci con la Spagna, chiamata intercontinentale, quindi facciamola prima che torna Toto Scaccia, altrimenti ci fa pagare la telefonata. Vediamo se riusciamo ad averlo collegato. Pronto? Pronto? La Spagna sta lista. È importante. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Alonso? Io sono sempre pronto perché sono pronto. Ma Alonso o Azzonzo? È il solito italiano mascalzone che se vuole divertire alle mie spalle. Beh, veramente mi sono divertiti tante alle sue spalle. Mi sono combinato. Guardi, se vengo io alle sue spalle non la faccio divertire per niente. Ah, queste battute da scuola. Insomma, ormai si sa, insomma, ha perso, è stato sconfitto. Sono arrivato quarto, ma è il problema. Anche un canguro sarebbe andato più veloce, diciamolo, dai. Lei mi sa come si è andata a dar fastidio alle pelotas. Non so se lei conosce cos'è la pelotas. No, lo ignoro, ve lo spieghi. Sono il contenuto dello scroto. Vabbè, ma andiamo avanti, all'avanti, in arriva, alla destra, alla derecha. Ma cos'è successo? Allora, ci racconta. L'abbiamo visto un po' nervoso. Cos'è successo? È successo che lo posso raccontare a chi? Sì. C'è stato un sottofondo in spagnolo, mi sento più a mio agio. Qualcosa non c'è ma mi abbassa Granada del grande Claudio Villa, devo cercare tanto. No, mi dispiace, vabbè, grazie mille, lei è una persona disponibile. Sì, no, me ne frega niente, la chiamavano available. Estavo listo alla partenza del Gran Premio de... Donde abbiamo c'era, corso. Era qua alla partenza, diciamo, donde, sì. Donde abbiamo corso? Puoi controllare in internet. In Australia. Non ricordo. Ah, a Melbourne. A Melbourne. Sì. E stavo a Melbourne. Non ricorda neanche dove. Vabbè. E dove è nato non è. Dove, no, dove è andato? Ecco. Lei lo sa che io sono nato nelle Asturie. Ma non me ne frega Asturie... niente di queste Asturie. No, no, volevo dire una cosa importante. Nelle Asturie o Asturi o Asturi. Ecco. Cioè, o diventi bravo a scuola, sì. O non stai nada nella vita. Allora dicevo, grande soddisfazione, io sono pilota Ferrari e stavo pronto e stavo listo. Listo vuol dire pronto a partire. E a un tratto, quando si stava sa il semaforo rosso, ha sentito Vettel nel Cullen. No. No, Vettel stava già avanti. Sì, abbiamo visto. Puerco dello zio. No, vabbè. È un modo di dire. E mi è arrivata una Yamada, una telefonata. Mentre era sulla Ferrari. Nel telefonino, esatto. Ed era mia mujer, la mia novia, la sua fidanzata. Sì, e sì. Che stava con Luca Barbarossa. Come quello? Perché hanno cantato insieme a Sanremo. Ma credo che mi abbiano messo anche un paio di corna di qua. Ah, quindi ho capito, lei per la delusione si è lasciata andare. Sì, mia moglie mi ha detto: guarda, sto vedendo un documentario con Luca e sta su Federico Barbarossa. Mi sono sentito preso per il culo. Sì, in effetti. E ho sbagliato la partenza. 7 posti, una parolaccia diversa da ogni macchina che mi superava. Che quindi 3 parolacce. Ho perso 7 posti, sono 3 parolacce. Ho detto diviso 2. No, è arrivato quarto, no? No, è sta alla partenza. Ah, alla partenza. Lei sì, non ha visto il Gran Premio, mi sembra un po'. Però, sì, no, ammetto che non l'ho visto, però sto leggendo le notizie. E niente, è stato. No, piangere. Non pianga. No, su. Oggi stanno piangendo tutti. No. Questo programma e mi sento il diritto di piangere pure mio. No, non deve piangere. Sto diventando veneziano, non so se nota. Sì, un pochettino da spagnolo a veneziano, però vabbè. Se lei vuole provare spagnolo, deve provare a parlare veneziano e mettere qualche esce di troppo. Non ci tengo. Vabbè, la saluto e torno che c'ho il prossimo Gran Premio. Scusi, mi sa dire dove? Che non trovo mai il termine all'aeroporto. Credo che sia ad Arcore, dove si... Sì. Tra l'altro, così, resti in diretta che non c'è il prossimo pezzo. Una cantante famosa ha dedicato una canzone a queste notizie del... insomma, del Bunga Bunga, questo scandalo del Bunga Bunga. È siciliana, non è spagnola come lei. E dove sta la Sicilia? Non ricordo. Dove sta parlando? Ha chiamato proprio in Sicilia. Ah, dove fanno la paella? No, è quella zona dove... È il pane con la meusa. Esatto. Ah, ho visto il video del pane con la meusa. Nicolò Piccione, saluto amico mio. Salutiamo i ragazzi che hanno fatto il video di pane con la meusa parafrasando Barbara Streisand. Ma noi ci ascoltiamo questa canzone di Carmen Consoli, Cercasi. Signorina ben fornita e intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Si apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine e libata, cercasi, donna usata, già rodata, cercasi, donna sicula o padana, oriunda clandestina. Oh, vediamo come paglia suon di samba o cha cha cha. Al colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante. Offre a cagne di strada un'opportunità di vita più agiata. Donna impenitente e ladra, cercasi, donna santa incensurata, cercasi, deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Oh, come cinema. Scena prima, ciak motore, azione, poi si gira. O forse ti interessa la politica. Ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica. Al giorno d'oggi. E allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sulle